Se sei un'impresa o un libero professionista, hai bisogno della PEC per attivare il tuo domicilio digitale, dove riceverai tutte le comunicazioni della pubblica amministrazione. Scegli la PEC preferita dagli italiani. Attivala facilmente su aruba.it. L'economia delle piccole cose. Di Anna Migliorati. E io che pensavo... Che pensavate? Oh, che i rifiuti si buttassero dalla finestra. E infatti, per comodità, noi facciamo la raccolta differenziata. Oggi stavano gli organici. Giovedì pomeriggio carta e cartone. Sabato vetro. Se ho un cartone da imballaggio, perché riciclarlo? Se ho altri rifiuti, perché differenziarli? Certo, siamo tutti d'accordo, l'ambiente, ma c'è anche altro. Ben ritrovati da Anna Migliorati. Parola d'ordine in questo 2020 è green, un imperativo diventato necessario per noi, ma anche al centro del dibattito con il Green Deal europeo, di cui sentiremo molto parlare. Europa dove ognuno di noi in media usa ogni anno quasi 15 tonnellate di materiali e genera 4,5 tonnellate di rifiuti, ma nei bidoni della spazzatura spesso c'è un tesoro. Carta, vetro, metalli, plastica, la stessa frazione umida. In fondo cosa sono se non, a loro modo, altre materie prime che magari possiamo non importare dall'estero risparmiando miliardi? L'ultima novità è di pochi giorni fa. Per decreto, carta e cartone sono ufficialmente diventati davvero materia prima seconda, tradotto una risorsa. Ma questo vale per la gomma o i pannolini, sì, i pannolini di cui c'è enorme produzione, chi ha figli lo sa. Ebbene, riprendono vita diventando plastica, biocarburante, perfino componenti per capi d'abbigliamento. La chiamiamo economia circolare. Quanto ci riguarda da vicino? E allora la nostra storia la affidiamo questa settimana a Noemi De Santis, tra i creatori di Junker App, l'app per la raccolta differenziata e più scaricata in Italia, perché primo passo è sapere cosa abbiamo in mano e anche questo non sempre è semplice. Allora, benvenuta, ci spiega subito come funziona? Sì, grazie a voi per questo invito. È immediata nell'uso perché basta inquadrare con lo smartphone un codice a barre di un prodotto che dobbiamo separare e gettare e l'app non solo lo riconosce ma lo scompone nei componenti e per ciascuno ci dice di che materiale è fatto e dove va conferito, cioè in quale bidone. Ho qualcosa in mano sul quale ho un dubbio, lo inquadro e so dove buttare i vari componenti. Esatto, e se non c'è il codice a barre basta inquadrare e fare la foto. E mi serve ad esempio se vado in vacanza in un comune che non è il mio o se mi viene invece qualche dubbio anche dove abito. Se mi sposto per lavoro o per vacanza mi basta riposizionarmi, cioè rigeolocalizzarmi sempre con l'app, è facilissimo. Quanti sono gli iscritti che avete? Comuni da una parte e cittadini dall'altra? Hanno superato gli 800 comuni in tutta Italia, davvero dalla Val d'Aosta alla Sicilia, dal Trentino Alto Adige alla Sardegna, e i nostri utenti sono oltre 1.300.000. Domanda difficilissima ma che noi facciamo sempre. In tutto questo chi ci guadagna? Noi cosa guadagniamo? Voi cosa guadagnate? Ci guadagniamo veramente tutti, perché per noi utenti si risparmia un sacco di tempo, di dubbi e soprattutto di errori che possono portare anche a multe in molti comuni. Perché se la raccolta è sporca, il comune paga invece di essere pagato per i materiali che consegna. Quindi ci guadagna anche il comune, ci guadagnano le aziende della raccolta perché si riduce la parte indifferenziata. Prossimo upgrade, a cosa state pensando? La bacheca del riuso, che permette di pubblicare con un click un prodotto che vogliamo regalare perché non ci serve più. Tipico il passeggino o il seggiolone dei bambini che sono cresciuti e che sta lì in garage a prendere la polvere. Riciclare, ovvero economia circolare, un settore in cui l'Italia eccelle. Nel primo quadrimestre di quest'anno, nonostante il lockdown, o forse proprio visto che avevamo più tempo e molte più consegne online e quindi tanto cartone, abbiamo differenziato il 10% in più degli imballaggi. Ma non solo, siamo capaci di riusare di tutto, dai noccioli di olive usati come combustibile fino ai residui di riso per produrre bioplastiche. Elena Sgaravatti, componente del Consiglio di Presidenza di Assobiotech e Federchimica, imprenditrice nel mondo delle biotecnologie vegetali, grazie per essere con noi. Grazie a lei, buongiorno. Quando buttiamo bene qualcosa, quando lo ricicliamo, ci sono dei prodotti che diventano altre cose. L'Italia, tra l'altro, ha delle eccellenze in tutto questo. Ce ne racconta qualcuna? Cosa di cui andare orgogliosi, spesso non si conoscono. Startup molto interessanti. Una che utilizza praticamente i miceli, i funghi, per produrre addirittura piastrelle, quindi tessuto vegetale, ma per produrre materiale che è anche esposto a grandi usura. Oppure un'altra azienda che utilizza materiale vegetale per la produzione di pelle da utilizzare nell'automotive, quindi per il rivestimento di in pelle di sedili, eccetera. È una startup che produce fibre tessili per l'alta moda da scarti di arance. Quindi se noi sbucciamo un'arancia, che tra poco è frutto di stagione, se ci ricordiamo di differenziarla bene, o ad esempio chi produce succhi d'arancia, questo può essere riutilizzato. È proprio il fondamento della bioeconomia questo, di riutilizzare scarti di lavorazione per essere impiegati anche in industrie ad alto valore aggiunto come quella della moda, del fashion. È chiaro, bisogna lavorarla bene, ovviamente, sì, certo. E riciclarla bene. Esatto. Non è proprio il pezzo di buccia buttato così. Esatto. E sono pelli molto, molto belle. Noi parliamo di economia delle piccole cose. Alla fine però tutto questo, sì, la buccia d'arancia è una cosa piccola, ma l'economia che ci sta dietro tanto piccola non è alla fine. No, direi che anzi, l'Italia si posiziona al terzo posto in Europa con un fatturato di 345 miliardi di euro, che occupa 2 milioni di dipendenti, quindi è un fatturato in crescita. Perché tra l'altro è l'OCSE direttamente che dice che questo tipo di economia, la cosiddetta bioeconomia, ma che riguarda anche il farmaceutico, la chimica, l'industria, ha un peso importante anche nell'economia mondiale e nello sviluppo futuro. Sicuramente avrà un peso importantissimo, perché il 2,7% del PIL globale sarà realizzato da prodotti che provengono da biotecnologie. Nel 2030 le stime dicono che l'80% dei prodotti saranno di origine biotech, i prodotti farmaceutici, il 50% di prodotti agricoli e il 35% di prodotti chimici e industriali. Ma la cosa che volevo sottolineare è che questa bioeconomia e le biotecnologie in particolare rendono conciliabile due dimensioni che fino a ieri si pensavano inconciliabili, che sono la crescita economica e la sostenibilità ambientale. Questa è la vera sfida. E allora? Facciamo i conti. E li facciamo con il professor Fabio Fava, docente di biotecnologie industriali ed ambientali all'Università di Bologna. Grazie a voi. La domanda è solo apparentemente semplice. Perché ci conviene riciclare? Dunque, innanzitutto, se me lo consente, dobbiamo ridurre la quantità di rifiuti che noi produciamo. Perché se facciamo più prodotto e meno rifiuto, a parità di prodotto che produciamo, risparmiamo nella materia prima, perché noi abbiamo questo problema ulteriore come paese, che non abbiamo tante materie prime. In sostanza non è sbagliato dire che in quello che noi chiamiamo rifiuti c'è ancora un tesoro? Assolutamente, cioè alcuni dei rifiuti sono quelli che chiamiamo materie prime seconde. Per esempio, la plastica, noi rifiuto di plastica lo possiamo riutilizzare se gestito bene, raccolto bene, processato, lo possiamo riciclare più volte all'interno della stessa filiera. Oppure un rifiuto diventa una materia prima seconda che alimenta una filiera diversa da quella che l'ha generato. Parlavamo prima, ad esempio, delle bucce delle arance che diventano tessuto d'alta moda. Assolutamente, ma mi consenta, prima di andare a fare il tessuto di alta moda, dalle bucce di arance noi possiamo tirar fuori anche delle fibre alimentari preziose, peraltro ricche di vitamine, che possono essere riportate dentro la filiera alimentare stessa. Un valore che in qualche modo sta anche nei nostri rifiuti domestici, non solo ma anche. Il rifiuto domestico, ma anche, e se mi consente soprattutto, i grandi volumi di sottoprodotti e scarti effluenti che fa l'industria alimentare. Per esempio l'industria alimentare italiana fa 15 milioni di tonnellate l'anno di questo materiale. Lì dentro abbiamo, come nei nostri rifiuti domestici, composti chimici, materiali preziosi. Attraverso l'intervento di trattamenti chimici, trattamenti biotecnologici, possiamo generare composti chimici, possiamo generare bioplastiche, possiamo generare anche combustibili e in cascata tanti prodotti che possono garantire opportunità di mercato, oltre che trattare in maniera definitiva il rifiuto, perché lo convertono davvero in maniera definitiva in altre cose. Qui di problemi di quantità non ne abbiamo. Non abbiamo né problemi di quantità, assolutamente, e grandi opportunità, e quindi penso al farmaceutico, al cosmetico, al chimico, al tessile, che fa sempre più uso di materiali con dentro carbonio biologico, carbonio che viene da biomassa e non da petrolio. Fa specie pensare che prodotti di alto valore come il farmaceutico possano stingere anche da ciò che consideriamo scarti. Ovviamente dipende molto anche da come è trattato lo scarto. Ha ragione, è così, dobbiamo fare attenzione anche perché c'è una normativa che regola questo percorso. Se poi mi consente, un altro aspetto che è prezioso, noi abbiamo anche la possibilità di avere come forse prodotto finale compost, fertilizzanti in senso più ampio, perché abbiamo capito che il suolo arido non si recupera più, ci vogliono migliaia di anni per ritornare ad avere un suolo fertile. È fondamentale quindi prevenire e garantire apporto di carbonio organico. E forse guarderemo con occhio diverso i rifiuti ora, prima di buttarli. Alla prossima storia, un saluto da Anna Migliorati, grazie a Carmelo Lauricella in regia. Ci ritroviamo qui sabato prossimo. Se sei un'impresa o un libero professionista, hai bisogno della PEC per attivare il tuo domicilio digitale, dove riceverai tutte le comunicazioni della pubblica amministrazione. Scegli la PEC preferita dagli italiani. Attivala facilmente su aruba.it.